Figli di Dio, voi siete tutti i miei fratelli, voi siete luce del mondo, voi siete il sale della terra, la tribù di Yahweh. La tribù di Yahweh, sarete tutti insultati, sarete tutti perseguitati, sarete tutti umiliati, afflitti e affamati in Cristo Gesù. In Cristo Gesù. La tribù di Yahweh. Cristo Gesù. Contro di te, anche tuo padre, anche tua madre. E contro di te anche l'amico del cuore. E dei due uno sarà tolto, l'altro lasciato. E nei campi uno sarà morto, l'altro curato. Ho portato una spada e non la pace. Se qualcuno vuol seguirmi, prenda la sua croce. Chi ha trovato la sua vita la perderà, ma chi l'ha persa per causa mia la salverà. Voi siete tutti i miei fratelli, voi siete luce del mondo, voi siete il sale della terra, la tribù di Yahweh. La tribù di Yahweh. Sarete tutti insultati, sarete tutti perseguitati, sarete tutti umiliati, afflitti e affamati in Cristo Gesù. In Cristo Gesù. La tribù di Yahweh. Seremos todos perseguidos, seremos todos juzgados, seremos todos humillados en Cristo Jesús. En Cristo Jesús.